Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo qua sono due nuovi esemplari di Acatina Catina che abbiamo comprato 10 euro. No, è Acatina Fullica, mi sembra. Acatina Fullica, scusate, che abbiamo comprato 10 euro. Sono vere perché si muovono. Sono chiocciole giganti africane. Sono dolcissime. Oh, adesso sto mangiando un pezzo di mela perché loro preferiscono le verdure zuccherine. La mia passione per le pogone inizia circa 2 anni fa, quando un mio amico me ne diede una coppia. Da lì nacque proprio una passione smodata per questo splendido rettile. È un sauro, si chiama Pogona viticeps o drago barbuto. Barbuto proprio perché nei maschi c'è questa colorazione nerastra a forma di barba. Alla fine è una splendida lucertola originaria dell'Australia, del deserto australiano. È chiaro che occorre variare il menù degli animali domestici che abbiamo in casa, se no sono sempre gli stessi. È altrettanto chiaro che prima o poi in Italia si porrà un grosso problema, forse qualcuno proporrà l'istituzione di un referendum. Sì, perché gli italiani stanno sempre più drasticamente dividendo in una sempre più vasta e più agguerrita e più corroborata comunque da una cultura generale serpeggiante, e il termine non è casuale, negli animi di tutti, di amanti degli animali. E una minoranza che diventa sempre più esigua, sempre di amante degli animali, ma che gli animali preferiscono o guardarli a casa d'altri o piacciono molto alcuni animali quando sono infilati nel girarrosto. È crudo quello che dico, ma in realtà è così. E si sta su questo componendo in realtà una disputa sempre più aspra, dai toni sempre più accesi. Abbiamo grandi testimonianze anche in questa radio di animalisti arrabbiatissimi, avversari di coloro che in realtà non hanno nulla da eccepire sul fatto che alcune specie di animali siano allevate, immaginate e da sempre destinate all'uso alimentare. Ma oggi vedo un paginone su Repubblica che mi fa fare una riflessione che forse merita un maggiore approfondimento. Si sta procedendo a un censimento degli animali domestici. Perché? Perché gli animali domestici cominciano ad assumere nella società una realtà che è ben superiore nella percezione generale, ma anche nel riconoscimento giuridico in certi paesi, perlomeno dell'Europa, che supera quella di un animale che si tiene in casa per fare compagnia, per far giocare i bambini, per far compagnia agli anziani o perché ci piace avere un animale in casa, fa parte dell'arredamento. Gli animali sempre più stanno acquisendo una loro dignità, una loro centralità, soprattutto da questa indagine che è dettagliata, è fatta da varie istituzioni, ma soprattutto dietro c'è chi produce mangime per animali, che vuole che il più possibile gli animali siano censiti in tutte le fattispecie possibili e immaginabili. Non parliamo soltanto di cani e gatti, parliamo di pesci, avete sentito, di animali esotici, iguana, serpenti, chiocciolone africane che sono dolcissime. Chissà perché un bambino vuole in casa un chiocciolone gigante africano perché è dolcissimo. Qualcun altro dirà è dolcissimo, sì, se è fatto con il sughetto e la cipolla. No, è dolcissimo come animale da coccolare. Poi spiegheremo, ci spiegherà qualcuno esattamente di cosa si tratta. Cosa si va incontro? Si va incontro al fatto che gli animali più assumono dignità, più hanno la loro funzione sociale. Si vuol passare l'idea che gli animali in realtà abbiano una funzione sociale, una funzione quasi terapeutica, di compagnia, di supporto alle carenze affettive che ormai gli umani non riescono più a colmare con i loro simili. E se questo fosse, gli animali diventano indispensabili al benessere dell'umanità. Se sono indispensabili, è giusto che vengano abbassate comunque le tasse sul mangime, sulle cure veterinarie, sugli accessori, che al momento sono al 22% di IVA. Quindi, probabilmente, più riconosciamo un ruolo fondamentale degli esseri senzienti e chiamati nostri amici pelosi, zannuti, ungolati e mugulanti in qualche maniera a quattro zampe, più qualcuno prima o poi dirà: beh, detassiamo tutto il mantenimento degli animali. Perché? Perché gli animali servono a fare felici i bambini, a riempirci affettivamente la casa, a far sì che gli anziani non si sentano soli. Quindi gli animali sempre più diventeranno un tutt'uno con l'umanità. Qual è la mia posizione? totalmente laica, non me ne importa assolutamente nulla. Guardo, osservo, mi diverto a vedere quelle che sono le mutazioni della società, fino a che ancora avrò lucidità per registrarle e per analizzarle con quella della mia esperienza di vita. 800240024. Questa mattina voglio sapere dal pubblico che animali strani avete in casa. Strani intendo che non siano cani e gatti, quelli sono banali. Anche pesci, non il solito pesciolino rosso. Anche l'uccellino, non il solito pappagallino che avete in casa, o il cardellino. Al cardellino non credo che si possa tenere. Comunque, gli uccellini, quelli illeciti. Quali uccelli illeciti? Quali serpenti? Quali ungulati? Quali rettili striscianti? Quali chioccioloni tenete in casa? E quanto ripagano la vostra attenzione con affetto e dolcezza? 800240024. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Lei è Nala, è una femmina di pitone reale ancestrale con una storia un po' particolare. In questo momento vedete che è un po' opaca perché si sta avvicinando alla muta e veniva alimentata con un topo bianco di circa 30 grammi al mese, quindi era parecchio magra quando è arrivata. Ora l'ho rimessa in forze e la sto nutrendo con i latti adeguati. Mangiava solo il vivo quando era a casa dell'altro allevatore. Io invece sono riuscito ad abituarla al decongelato con successo in breve tempo. Lei è la mia Pantherophis guttatus femmina, è una snow di circa 600 grammi. Povera pitonessa, grammi. Quanto avrà sofferto a mangiare soltanto topi vivi, con la difficoltà che probabilmente hanno avuto nel trovarli vivi. Certo, non certo a Roma, basta portare il pitone a spasso nel Lungotevere, ma in qualsiasi strada, con il bel guinzaglino, ha voglia di mangiare, torna che non ce la fa nemmeno a trascinarsi. Esistono, sì, e questo è un conflitto sicuramente di coscienza, delle belle confezioni di topi surgelati, li vendono online, è una bella stecca con tutti i topini allineati, bianchi, surgelati, uno li compra e deve mangiare al pitone. Certo, se uno è mosso da un istinto profondamente rispettoso della dignità di un essere animale, in quanto essere senziente, deve fare una scelta drastica. Se voglio far sopravvivere il pitone, devo dargli da mangiare il topolino. Se voglio far sopravvivere pitone e topolino, non so, suggerisco a entrambi una dieta vegetariana. Vediamo di sentire quello che è il feedback immediato del nostro pubblico rispetto alla capacità, possibilità, desiderio, risultato in termini affettivo, in guadagno di autostima nel tenere animali a casa. Ma per oggi vorrei non parlare soltanto di cagnolini e gattini, vorrei parlare degli altri animali, perché sono molto curioso. Rafael, buongiorno. Buongiorno, salve. Di cosa è appassionato lei? Io di tartarughe, in realtà. Vabbè, tutti abbiamo avuto le tartarughe, almeno da bambini le avevamo. Io ho una tartaruga un po' particolare, la mia è una tartaruga di origine dell'est Europa, russa praticamente. E qual è la differenza? Qual è la differenza? Al pelo? Che praticamente non è una tartaruga d'acqua come si trovano normalmente nei mercatini, è una tartaruga di terra. Quelle che si trovavano una volta in campagna, non se le portava a casa e dava l'insalata, o no? Sì, cosa che non si può fare in realtà, però sì. Lo so, io parlo di 50 anni fa, adesso penso... Esatto. Cioè, se uno trova una tartarughina in un bosco, non se la può portare a casa? No, non la può portare. E che ci fa? No. Che deve farci? La lascia lì dov'è. Ma magari poi passa un camion nella stritola. È la natura, è la vita. Io sono molto... Cioè, proibita il mantenimento di tartarughe in casa? Sì, c'è una multa, se la trovano c'è una multa. E quindi lei rischia la prigione per tenendosi... No, io l'ho legalmente dichiarata, io l'ho comprata attraverso... C'è un documento proprio che permette l'acquisto di un certificato specie d'origine di tartarughe russe. Di alcune specie particolari. Quindi le tartarughe, quelle diciamo coatte, campagnole, delle nostre campagne... Non può tenerle. Assolutamente. Non può tenerle. Almeno che non abbia, ecco... Magari sono figlie di tartarughe molto anziane che erano già in possesso di altre persone che hanno un documento, quindi almeno che non siano state cedute, non abbia un documento, lei non può tenere. Questa è una bella notizia, nel senso che si mangia? La sua tartaruga che si mangia? La mia tartaruga mangia prevalentemente verdure, in realtà molte le danno l'insalata, ma è un'alimentazione sbagliata. Vabbè, prevalentemente certo. Si nutre di erbe di campo, ecco, va matta per i denti di leone. Ma lei dove va? Va in campagna a cercare i denti leone per la tartaruga? No, io ho un pezzo di terra e quindi... Coltiva il dente di leone? Anche, sì, li ho piantati. Senta, sì. Ma questa tartaruga è sola, single? Sì, per ora è sola, perché non voglio, per il momento non ho abbastanza spazio per metterne altre. Perché la sua è femmina o maschio? È una femmina, si chiama Atwin. Povera Atwin, però prima o poi avrà nostalgia d'amore. Sì, avrà nostalgia d'amore e dovrò pensare a prendere almeno un altro paio per farmi. Ma non funziona il mondo dei felici possessori di tartarughe? Non so, un social network in cui dici: io c'ho un maschio attizzato. Io sì, ne abbiamo, sì, c'è un mondo, c'è un sottobosco ricco di. Questo mi interessa. Lei un domani potrebbe mettere la foto della sua tartaruga, ecco, cerco maschio per la mia tartaruga. Sì, potrei farlo. E troverebbe in questo caso, secondo lei? Probabilmente sì, probabilmente troverei qualcuno che è. Immagino che avranno dei tempi di corteggiamento lunghissimi, 6 anni. Ma no, in realtà no, è abbastanza, non è così, anche perché la tartaruga, diciamo, ha un breve periodo in cui è sveglia. Io ho un animale, io dico sempre che un animale solo 6 mesi l'anno, perché cioè come se avesse un sasso. L'anno lo passa dormendo, quindi che, è come sì. Avere un sasso dentro casa, però sta esatto, sempre lì. È un po' come avere un sasso dentro casa. Ma lei che ci fa? Anni. Qual è, diciamo, il corrispettivo di gratificazione affettiva che le dà questo sasso che una volta l'anno esce fuori? È strano, perché in effetti uno pensa che c'è pochissimo, perché comunque non puoi. Io evito il più possibile il contatto, quindi evito di prenderla in mano, evito di darle quindi noia. Nemmeno la carezza, niente? No, c'è gente che gli fa anche il bagnetto, si figuri. No, ma bisogna tirarla fuori dal... No, sempre così, non si spoglia la tartaruga. No, io la guardo, cioè ad esempio l'altra mattina la stavo guardando e lei stava facendo una posa un po'... Io credo che lei sia convinta di essere un dinosauro, quindi ogni tanto si mette in posizioni... Ah, s'atteggiava dinosauro, sì. Ha visto, sì, Jurassic Park, lei ogni tanto sembra un po'... Secondo me lei è convinta di essere un animale gigantesco, in realtà non si rende conto delle sue dimensioni effettive. Ma lei potrebbe comprare dei dinosauri di plastica con i bambini e metterli vicini, fargli un habitat? Potrei, probabilmente cercherebbe di mangiarli, però potrei. Sì, senta, ma quando lei va in vacanza, lascia in casa così o se la porta dietro? Dipende, no, io cerco sempre di lasciarla nel suo habitat, se è in letargo non mi faccio problemi. La lascia a casa, sta lì tanto. Se non è in letargo l'affido a qualcuno. Ma esiste un porta tartarughe, cioè un qualcosa allora, a portarla in giro? Io l'ho fatto quando qualche anno fa, però è meglio evitare di spostarla, anche perché lei va in panico facilmente. Senta, l'ultima domanda, faccia pure i debiti scongiuri. La tartaruga camperà 200 anni, quindi lei dovrà comunque occuparsi del dopo di noi, della sua tartaruga. La lascerò in eredità probabilmente ai miei figli. Farà un lascito, va bene, bocca al lupo. Un lascito testamentario, grazie. Luca, buongiorno. Luca, lei invece di cosa si diletta? Salve, complimenti per le sue trasmissioni. Innanzitutto l'ascolto sempre. Vorrei che sentisse colà dove si può ciò che si vuole. Allora, Luca, dica. Io sono della provincia di Varese e qualche anno fa avevo scoperto per caso in internet l'esistenza di una razza di pecore nane. Ah, carine le pecorine. E che le alleva, cosa ci fa? Ne ho comprati alcuni esemplari, poi hanno iniziato a riprodursi, ho anch'io un pezzo di terra. E si riprodurranno in maniera selvaggia, sono molto prolifiche. Sì, no, a dire la verità no, le pecore nane no, non sono da confondere con le caprette nane che sono molto prolifiche. Le pecore nane sono non sono frutto di esperimenti o di strane... Cioè una pecora, quanto è grande la sua pecorella? No, le pecore nane arrivano al ginocchio praticamente, sono una razza. Ci può fare originata... il presepe a Natale, bellissimo, sì, con le presepe vivente con le pecorine vere. Sì, e sono originarie di un'isola della Bretagna, l'isola d'Ossan. Qualche anno fa ce n'erano poche centinaia in tutta Europa, erano a rischio estinzione, poi sono entrate nelle grazie, diciamo, di noi appassionati. Quante ne possiede lei? Io sono partito con 2, adesso sono 7. È un greggino praticamente. Sì, un piccolo gregge. E adesso ce ne sono qualche migliaio. Dove le tiene lei a casa sua? No, vuoi capire come le tiene a casa? Sì, sì, no, un grosso prato vicino casa. Ma non entrano in casa però? No, assolutamente. Anche le pecore spallineggiano, si sa, lasciano una traccia abbastanza... Sì, infatti. Ma le lava, le cura, gli mette il soflan ammorbidente oppure le tratta... No, vengono rasate a maggio perché hanno molto pelo. E lo fa lei a mano come hobby? Sì, mi aiutano. Delle il piccolo tosatore ha tutto il kit. Sì. Ma con la lana che ci fa poi? Ci si fa delle sciarpine? No, la lana io semplicemente poi la butto, anche perché non saprei a chi... Ma è un peccato, una volta la lana aveva un valore, ci faceva un materassino forse. Sì, lo so, ma andrebbe penso lavata, trattata, e quindi non ho le possibilità. Quindi praticamente lei È come l'hobby del piccolo pastore, c'ha delle pecorine piccole in un pratino davanti casa e gioca con loro. Ecco, vabbè, sono dei rasaerba perfetti. L'unica cosa, il maschio ha il vizio di incornare, ha fatto cadere diverse persone perché a tradimento ti colpisce. Questo è sempre stato così, esatto, però il montone da di corna. È vero. Però fa il suo dovere, diciamo, quando è il momento copre le pecorelle e fai tanti agnellini. Sì, poi abbiamo diviso i maschi dalle femmine per evitare parti continui. Comunque fanno un piccolo l'anno, questa razza infatti è poco prolifica, per questo anche rischiamo distinguere. Vabbè, ce n'ha già 7, in giro qualche anno ne avrà qualche decina. Sì. Hanno un valore di mercato, le venderà o le tiene tutte ormai? No, io non penso di venderle perché temo finiscano in qualche piatto. Sì. Ah, perché sono commestibili le pecore nane? Sì, avranno poco... Si mangia poco. Poca carne, ma comunque sono sempre pecore. Cioè, se uno le mette in padella, certo, se le mangia. Va bene, grazie Luca. Filippo, vediamo un po'. Filippo. Buongiorno. Buongiorno, lei di cosa si diletta dal punto di vista... Io mi diletto di falconeria. Ah, è un'arte venatoria antica ma nobilissima. Quindi hai falchi? Nobilissima, assolutamente nobilissima. Infatti Federico II di Svevia, il grandissimo falconiere, ha lasciato l'arte della caccia col falco, che è uno dei libri più importanti della storia della poi falconeria. È venuto qualcuno, si è inventato i droni, pensi un po'. Esatto. No, ma lei dove tiene i falchi? Voglio sapere la convivenza con gli animali. Io ho una falconeria vicino a Milano dove tengo i due falchi, uno da alto volo e uno da basso volo. Alto volo vuol dire che lanci il falco, il falco gira e si butta sulla preda, e da basso volo invece la tengo. Sarebbe il falco padulo, detto volgarmente. Mica tanto, cioè. Vola basso. Invece il basso volo è la caccia per eccellenza, usi il falco come se fosse un fucile. Senta, i falchi se li porta anche in giro come uno porta un cagnolino, un gattino, per capire? No, il falco si porta in giro solo quando vai a caccia, c'hai il suo trespolo speciale dove ti porti i tuoi falchi, ma solo esclusivamente quando vado a caccia. Ma non si porta sulla spalla come si vede nei film il falcone? No, c'è proprio una specie di baldacchino dove si portano uno o due falchi, dipende quando uno ce li ha, proprio se li porta tranquillamente. Però tenerli in casa non sono animali a tenere in casa, diciamo. Assolutamente si possono tenere in casa senza nessun problema, sono docilissimi, sembra incredibile, ma sono docilissimi. Non il da basso volo, perché se lei prende un girifalco oppure un... parliamo di falchi nobili, non parliamo di poiane o roba del genere. Sì, è chiaro. Certo, il falco nobile è una cosa... Dunque viene messo... Gli altri sono mangiatori di cadaveri, non entriamo... Sì, gli altri sono uccellacci, diciamo. Invece i falchi da caccia sono qualcosa di... Senta, ma quando si tengono in casa, sono animali voluminosi, ma bisognerà mettergli il pannolone o qualcosa del genere, perché non è che proprio... Allora, ci sono le purghe, cioè le fatte del falco, perché lei sa benissimo che uno degli errori che fanno chi magari trova un falco nel nido o roba del genere e pensa di trovare un canarino, di tenersi in casa il falco e fa degli errori madornali perché gli dà da mangiare dalla carne, e questo qui il falco dopo si ulcera e muore. E invece cosa mangia? Il suo falco che mangia? Deve mangiare assolutamente il falco, deve mangiare o il vivo o altrimenti delle carni, però coperte da garza o da stoffa, perché pulisce lo stomaco. E fanno queste purghe, fanno queste pallottole, no? Vabbè, scacazzano la garza con dentro il cibo. Esattamente. Vabbè, quindi è come buttare via un Tampax, prende e lo mette nella bustina. Esattamente, ma mi creda, tengono pochissimo spazio, tant'è vero che quando vengono a trovare magari degli amici, che c'ho Axel, che questo astore femmina meraviglioso, e dicono: ma perché tiene un falco imbalsamato? E quando vedono che è un falco vivo, gente non capisce più, si spaventa. Ma certo, devo dire, una città come Roma non avrebbe difficoltà a trovare il vivo. Ripeto, no, lo dicevo prima al signore col pitone. Fa un giro sul Lungotevere. Hanno chiamato diverse volte anche ad andare a Linate per far uscire i piccioni dall'aeroporto, perché comunque in ogni caso il falco e il piccione è una delle sue prede preferite. Se li mangia come niente fosse. Sì, assolutamente. Ma poi tra le altre cose, il logoro, che è lo strumento che serve per addestrare il falco, che è praticamente, in parole povere, un pezzo di corda con attaccato delle ali di un piccione che si fa roteare e il falco, rivedendo, ritorna al braccio. Quindi in teoria, se uno volesse azzardare una piccola attività domestica, uno con un falcone si offre per debellare animali che sono molesti, storni, topi, ratti, se li mangerebbe tutti il falco. Questo è è per far divertire il falco. Se uno vuol fare un'attività molto remunerativa, addestra il falco e lo vende agli arabi. Hanno delle cifre che raggiungono quelle di una macchina di grosse cilindrate. Ah, ho capito, perfetto. Ci fermiamo un attimo, già sono oltre il tempo stabilito, devo dare la linea. Quali animali domestici esotici avete in casa? 800 24 0024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. L'accoppiamento è abbastanza cruento, infatti il maschio deve proprio sottomettere, morsicando alla base della testa, quasi sul collo, la femmina. Poi va a inserire i suoi emipeni nella vagina della femmina. In questo caso vediamo una femmina che sta scavando. Questo chiaramente è il sintomo che ha da deporre le uova. Quindi questa femmina verrà trasferita nella sala parto, dove deporrà tranquillamente le sue uova. Dopo circa un mese e mezzo di gestazione delle uova. Oddio, questi particolari sull'accoppiamento del drago barbuto mi pongono qualche domanda, ma quanti piselli c'ha il drago barbuto? Magari forse può rispondermi Luigi Cicero. Buongiorno Luigi Cicero. Buongiorno. È responsabile dell'emporio degli animali a Scicli, da 30 anni si dedica alla vendita, all'allevamento di animali esotici. Quindi lei tutti gli animali che abbiamo finora citato più o meno in qualche maniera li ha gestiti, o li ha allevati, o li ha venduti, o li ha visti passare? Sì, sicuramente tutti li ho venduti, quelli che sono stati nominati nella trasmissione, e alcuni li ho anche allevati con un discreto successo. Ma il drago barbuto esattamente cos'è? Una specie di lucertolone? Sì, diciamo che è una piccola lucertola che riesce a raggiungere anche un chilo 200 grammi. Ci sono anche diverse mutazioni, perché ormai è da molti anni che viene allevato nei vari terrari che sono un po' dislocati in tutta Europa, perché sono animali che provengono solo ed esclusivamente da allevamenti specializzati, non vengono prelevati. Ma la gente li tiene anche in casa, cioè li comprano per tenerli in casa? Assolutamente sì. Ma che si mangia? Il drago barbuto che si mangia? Il drago barbuto ha un'alimentazione prettamente carnivora, mangia delle piccole talme all'inizio quando è piccolino, poi quando è un po' più grande mangia dei pink, che sono dei piccoli topolini appena nati, per arrivare poi... Ma si vendono surgelati o bisogna tenerseli vivi in casa? Come funziona? Per alcuni animali poi va bene anche surgelato, per altri è importante che l'animale sia vivo, perché hanno un metodo di individuazione dell'animale che va a termica, cioè nel senso che un animale vivo emana calore, allora la loro vista... Lo mangiano solo se è caldo, ecco. Solo se è caldo, se emana calore, perché solo così lo puoi individuare. Invece su congelato ci sono delle difficoltà per alcuni. Allora poi mi faccio capire, uno che io volessi tenermi in casa un drago barbuto, perché dico, è l'unico animale che fa compagnia, dovrei tenermi anche in un angolino una scatolina dove allevo i topolini. Ma diciamo i topolini no, per il drago barbuto basterebbe una teca dove tenere anche dei vermi, delle camole, ci sono chi alleva le camole. Ah, quelli per pescare, farina. Diciamo, i vermi da pesca. Sì, non sono tipo quelli da pesca, queste qua, le tarme della farina, si allevano molto facilmente, molte persone ci hanno dentro, le usano sia per gli uccellini che per i rettili. Io ne vendo tantissime di queste tarme della farina. Se sono indiscreto, ma di carne, il signore prima parlava di uno strano accoppiamento del drago barbuto, non voglio entrare nell'intimità, ma... È dotato di più attrezzi per accoppiarsi? Sì, diciamo che nei rettili gli attrezzi per l'accoppiamento sono molto strani. Quanto ce n'ha? No. Il drago barbuto quanti ce n'ha? No, ha delle puntine che escono, che si vanno a infilare dentro la vagina. Cioè ce l'ha piccoli ma ce n'ha tanti, quindi... Sì, ce l'ha piccoli ma sono molto... Però ce n'ha tanti. Allora, quali altri animali esotici lei vende che gli italiani si tengono in casa? Solo per capire. Tanto per nominare quelle più particolari, ho venduto di tutto, parliamo che si trovavano sul mercato. Io vengo dalla fine anni 80, quando tutto era lecito, poi le leggi sono cambiate, diciamo c'è una ristrettezza nel mercato, ci sono molti animali che non possono più essere venduti perché sono ritenuti giustamente pericolosi per l'uomo. Ma lei lo sa che Roma è invasa da pappagalli brasiliani Io abito... Sì, quelli sono gli animali... Nel quartiere Prati siamo pieni di pappagalli bellissimi. Lo so, l'ho visto anche io, sono venuto molte volte a Roma, sono animali invasivi. C'è una legge europea che cerca di tamponare questa invasione di animali esotici che vengono rilasciati nel nostro ambiente, che sono molto dannosi anche per... Ma è vera la storia che questi furono rilasciati da commercianti abusivi, quando la legge proibì di tenerli, li lasciarono tutti in giro? No, non è vera assolutamente, è una bufala questa. Ah, una bufala, beh, qui. È una bufala, sono sicuramente animali scappati ad allevatori che sono stati lasciati liberi dagli allevatori, oppure che non hanno voluto metterli in commercio e l'hanno liberati, oppure sono animali che sono scappati da... diciamo da terrorismo fatto da animalisti per liberare gli animali e poi li vanno a invadere anche i nostri territori. Villa Celimontana è piena, adesso anche Viale Mazzini è pieno, di animali, sì, sì. Bellissimi, ma non c'entrano, non c'hanno non niente. Non c'entrano nulla e sono dannosi per il nostro ecosistema. Sentiamo un attimo Donatella. Donatella, un attimo, poi ci ascolta. Luigi, Donatella è caduta. Danilo, buongiorno. Così alterniamo. Pronto? Sì, Donatella, è tornata. Donatella, lei cosa possiede per farle compagnia dentro casa? Prima di tutto buongiorno. Dottor Nicoletti, sì. Ascolti, io ho delle tartarughe Hermanni, testudo Hermanni, io volevo semplicemente dire che non è così semplice tenere in casa e avere il possesso di questi animali, perché il Corpo Forestale dello Stato ha delle regole estremamente difficili. Io ne avevo acquistate due tanti anni fa, le parlo di 30 anni fa, adesso ne ho 35. 35 tartarughe per casa? No, non per casa, io le ho recintate, io ho oltretutto anche un grande giardino per cui le ho recintate. Pieno di tartarughe. E questa coppia mi ha sfornato nel frattempo 30 cuccioli. Vabbè, uno all'anno l'hanno fatto. Non ho capito. Un figlio l'anno hanno fatto, in 30 anni 30 no, figli. No, anche di più, cioè la femmina depone le uova. Il problema è questo, che queste vanno accudite, a loro va portato del cibo, perché... Ci pensa lei a questo, diciamo? Prego? Quando la femmina cova le uova, lei sta lì, deve accudirla. No, io non posso vederla. Mentre il Corpo Forestale dello Stato, io dovrei denunciare la monta della tartaruga, ed è una cosa impossibile, perché io non le ho in casa, chiaramente. E poi 30 tartarughe, come fa? Dovrei denunciare la nascita, dovrei denunciare il sesso. Però, cioè, se la legge è questa... Io penso di essere l'unica italiana che ha denunciato tutte le tartarughe, microchippate tutte, 30 Ma scusa, lei come funziona? Lei ha 30 tartarughe. In teoria... No, di più di 30. Più. Ma quante monte fanno all'anno di media tutte queste tartarughe? Guardi, loro vanno in letargo d'inverno, chiaramente, e in primavera, appena esce il maschio, lui non mangia, rifiuta il cibo e immediatamente copre la femmina. Poi, e lei che deve fare? In quel momento deve subito denunciare alla forestale, chiamare? Dovrei, chiaramente io non è che posso vivere nel giardino però, e controllare questo. Però questa responsabilità, lei cosa deve fare? Anche dettagliare, diciamo, oggi ha montato Rosalinda, domani ha montato Antonella, cioè tutti esatto, i nomi. Esatto, io dovrei fare questo. Però scusi, è il suo obbligo. Poi denunciare la nascita, cosa impossibile, perché quando si schiudono le uova, chiaramente io non sono sempre in giardino a controllare. Però scusi, Donatella, ha voluto le tartarughe, adesso si sciroppa tutte le monte, tutte le nascite, è una grossa responsabilità e la legge dice questo, quindi la sua vita sarà dedicata a registrare in maniera meticolosa ogni atto d'amore, ogni nascita, ogni battesimo, ogni prima comunione delle sue 30 e passa tartarughine. 800240024, solo un istante, poi ci sentiamo. Melog, cronache meridiane. Beh, ha un senso fare questa sorta di domanda ai nostri ascoltatori. Abbiamo avuto nel giro di una mezz'oretta una campionatura vastissima e quanto mai eclettica di quelle sono le passioni animali degli italiani. Voi pensate fossero solo cani e gatti, immaginate l'allevatrice di tartarughe, l'allevatore di pecorine nane, il serpentaro, il drago barbuto, ma poi ce ne sono tantissimi. C'è anche Danilo, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei. Lei è di cosa appassionato? Quale animale? Ma io ho una grande passione per gli asini. Ah. In particolare per gli asini nani. Quanto sono nani? Quanto sono grandi gli asini nani? Ma arrivano, diciamo, ai così a occhio 50-60 centimetri. Come un cagnolino? Sì, 70, dipende. Vabbè, un asinello da piccolino, da guinzaglio, carino. Ma io ne sono innamorato. Io purtroppo ho un problema. Un mio amico mi ha regalato un asino. Lui all'allenamento. Nano o normale, diciamo? Normale. Mi ha regalato un asino, è mio, sta nel suo terreno perché lui ne ha una cinquantina. E lei dove lo tiene? Il suo asinello dove lo tiene? No, e io dunque c'ho un problema. Mia madre e mio figlio, appena che hanno saputo che stavo acquistando un asino nano, mi hanno tolto le chiavi di casa. Hanno detto o entri tu o entra l'asino. Sì, purtroppo io sono un ragazzo padre e non posso neanche andarmene ad abitare a un'altra parte. E quindi lei che ha fatto? Lei l'asinello dormito in una stalla, cosa fate? No, e dunque, l'asinello ora lo tengo da questo amico mio. Ah, l'ha dato in cura l'amico. Però no, è mio. Sì, l'asinello. Sì, no, nessuno glielo toglie, ma nel senso, però lo tiene, lo alleva al suo amico. Barone è un animale, l'asino si chiama Barone. E ogni tanto che va a salutare Barone, passate un pomeriggio, sì, assieme. No, ma sono degli animali particolari. Ma sono meglio degli uomini, questo sicuramente. Ma guarda, su questo ci puoi dormire tranquillo. Hanno le orecchie d'asino lunghe come gli asini, come Pinocchio, quelli lì sono. Sì. Però diciamo l'asino c'ha un grosso problema, che è l'unico animale che muore di solitudine. Ma gli trovi un'asinella nana? No, non lo so. No, vabbè, ma questo sta insieme a una cinquantina d'asini, non è un problema. Eh sì, ma voi vuole l'asina. Sì, però diciamo, no, lì c'è tutto, asini. L'asino poi è ridomato per la sua capacità telescopica di innamorarsi e fare atti d'amore, quindi figuriamoci. Sì, sì. No, ecco, sono degli animali meravigliosi. Vorrei avere la possibilità, purtroppo abito al centro di Roma, di spostarmi un po' fuori. Ma dove lo tiene? Vicino Montecitorio? Dove lo tiene l'asino? No, guardi, no, non offendiamo gli asini a mandarli a Montecitorio, per carità. Ma non se l'hai mai portato in giro per Via del Corso, così, tanto per vedere che succede? No, perché è complicatissimo portarli. Beh, però se è piccolo, scusi, gli mette un guinzaglio, magari non se ne accorge nessuno. No, la normativa per portarli in giro. Non si può portare l'asino a spasso? Non lo puoi trasportare in macchina, ci vuole tutta un'attrezzatura speciale, capito? Ma se è piccolo, scusi, uno può portare un cane che pesa 100 kg e non può portare un asinello che è caruccio, carino, così? No. Guarda, dipendesse da me, veramente. Sì, ma cosa ci si fa con asino nano? Perché non ci si può andare a cavallo, naturalmente. Scusi, no, ma perché ci deve andare a cavallo? Pure bestie, no? No, la compagnia. La compagnia, no, lo guardi. Comunica veramente tantissimo. Ci parli, ci chiacchieri. Si capisce. No, ma guarda, capiscono più loro che tante persone. No, gli asini rispetto al cavallo sono molto più intelligenti, questo è vero. Molto bravo. Sono più empatici. Bravo. Il cavallo non è empatico. Il cavallo monti sopra, galoppa, va al trotto, va al passo, sta fermo, mangia, dorme, beve, fa altre cose. L'asinello no, l'asinello è empatico. Infatti è possibile stabilire dei bei rapporti con gli asini. Auguri, torno con Luigi Cicero. Luigi Cicero, gli asini fanno parte, diciamo, del suo campionario. Ricordo che ha un emporio degli animali a Scicli, da 30 anni alleva e vende animali di tutti i tipi. Asini ne hai mai trattati, Cicero? Sì, li ho trattati perché il mio punto vendita è su 5.000 metri quadri, con ampi spazi, ho anche alpache. Quindi anche l'asino nano? Anche l'asino nano, sì, ho avuto anche gli asini nani, ho avuto anche gli asini quelli ragusani, quelli nostri tipici. Però tipico, poi, asino. Diciamo, un po' la restrizione delle leggi ha impedito, diciamo... L'alpaca, si può acquistare un'alpaca, sì. L'alpaca è libera vendita, è un animale tranquillo. E ma che uno che ci fa con un'alpaca in casa? Ma guardi, ogni soggetto ha un animale per conto suo, dall'alpaca fino ad arrivare al ragno, alle rane, agli armadilli. Cioè, io ho avuto le richieste più assurde in questi 30 anni. Serpenti ne vende, ne tratta? Sì, serpente è un animale molto comune da vendere, come le iguane, i draghi barbuti sono molto comuni, si vendono molto facilmente. Ma in casa questi animali stanno fermi, buoni, danno fastidio? Ma guardi, ogni animale sta un rapporto con il suo proprietario, si chiama inbreeding, cioè viene imbrindato, l'animale si affeziona. Io sì, ma uno se ha un drago barbuto a casa non è che potrà ricevere ospiti, avvertirli, guarda, vieni a casa mia, tieni conto che c'è una specie di dinosauro. Questo è un problema di chi va a trovare queste persone, perché no, chi vive con un animale in casa non ha nessun problema. Cioè, non ha bisogno di gente che venga a trovarlo, probabilmente. Perché animali pericolosi comunque non se ne possono tenere, dunque qualsiasi animale si trova in casa è un animale. Ma un serpente boa si può tenere in casa? Cosa? Un serpente boa, ad esempio. Sì, un boa, sì, un boa costrittore è libera vendita. E qua c'era anche Cicciolino, teneva in casa. Che deve essere sempre certificato, un animale che deve essere certificato, perché è importante, ci sono delle leggi molto severe. Alcuni animali sono in CITES e dunque devono essere regolamentati con una rendita. Si deve sapere la provenienza di questi animali, non possono essere predati in natura, capito? Beh, però anche un boa è difficile da gestire in casa, perché... Stavo raccontando che questo, io avevo un cliente che aveva un pitone, un molurs di 4 metri e mezzo, che la sera, quando si vedevano il televisore, lui apriva la teca e il molurs andava sul divano insieme a loro. Ah, si metteva lì. Era affezionato, alla stessa affezione che ci può avere un cagnolino. Uno sta abbracciato al pitone. Quindi alla fine noi abbiamo una visione molto limitata quando pensiamo solo a cani e gatti. Io parto dall'articolo a cui sono partito, di questa anagrafe degli animali. È molto limitata. Il pet, così, il mondo del pet, l'animale, ormai il pet è molto largo, nel senso ci sono delle rane, ci sono dei ricci africani, ci sono dei malati. Ma il riccio africano c'ha gli acule come il riccio normale? Ma sì. Alle acule come il nostro. Il nostro è vietatissimo, non si può detenere, mentre il riccio africano che proviene dall'allevamento si può tenere, e alle acule che stanno male, ma essendo un animale da pet, nel senso che viene maneggiato, viene allevato da persone, non sta chiuso al riccio che faccia male, ma bensì sta sulle mani, sta insieme al proprietario. Io ho avuto dei ricci a casa da piccolo, sono come dei maialini quando camminano, sono carini. Sono bellissimi, sono molto affettuosi anche come animali. Cioè, tu non stai attento quando li carezza, se li carezza contropelo si può anche far male. Infatti la carezza non ti fa contropelo, ti fa al contrario. Sentiamo Claudio, velocemente, chiudo con lei. Buongiorno. Stavo sentendo la trasmissione e volevo dire del mio pappagallo, che ce l'ho dal 1990. È un'ara amazzone a fronte blu, si chiama Falcao. Cioè, c'ha già una trentina d'anni, quanto c'ha? C'ha 27 anni. E quanto vive ancora? Dovrebbe vivere in altri 40 anni. E quindi lei dovrà cominciare a fare un testamento per il dopo di noi, per il suo pappagallo? È già fatto. E chi lo lascia? Intanto la mia compagna, siccome si è affezionata tanto, mi ha fatto firmare un foglio che è suo. Quindi qualunque cosa succeda, almeno, diciamo, l'uccello di 27 anni sopravviverà e avrà qualcuno che lo amerà anche dopo che lei non sarà più tra noi. Questo mi fa piacere, è una speranza di sopravvivenza oltre la vita. In bocca al lupo, alla prossima.